Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, l'abbiamo messo subito in apertura il gallo, così eliminiamo ogni dubbio. Molto bene oggi le borse, più 4,75% Milano, più 5,74% Parigi, più 5,10% Francoforte, più 2,60% Londra, più 2% gli Stati Uniti. Che cosa è successo? Beh, ve lo hanno già raccontato i nostri GR in sintesi. Non tanto, non solo la lettera italiana a Bruxelles che ha fatto arrabbiare i sindacati, laddove va a riprendere le indicazioni, chiamiamole così, arrivate nella famosa lettera da parte della Banca Centrale Europea al governo italiano, e mi riferisco ai licenziamenti per le aziende in stato di crisi senza obbligo di reintegro, ma perché il Fondo Europeo di Salvataggio ha visto la sua dote finanziaria ampliata a 1.000 miliardi, fino a 1.000 miliardi, e poi perché c'è l'accordo sulla Grecia, per cui anche Atene era la borsa migliore, è arrivata a guadagnare fino al 7%. E poi il piano di ricapitalizzazione delle banche, ripeto, il fondo salva stati serve per salvare gli stati, però passa da 440 a 1.000 miliardi di euro, le banche che hanno accettato una svalutazione del 50% per la loro esposizione verso il debito greco, che significa soprattutto per le banche francesi e tedesche, che hanno la maggior parte dei bot greci tra le banche europee, rinunciare a circa, anzi alla metà. A spanne erano 30 miliardi più 22, stiamo parlando di 25 miliardi in meno. E ancora 130 miliardi di nuovi aiuti alla Grecia. Per quello che riguarda la ricapitalizzazione delle banche, un piano da 106 miliardi per aumentare il capitale delle banche europee entro il 30 giugno del 2012, e praticamente il Core Tier 1 dovrebbe andare al 9%, e anche qui è il rapporto, insomma, tra il capitale che ha e gli impieghi, chiamiamolo in questo modo. Dovranno le banche prima trovare capitali propri e poi chiedere casomai l'intervento degli stati, e solo in ultima battuta del fondo di salvataggio europeo. Alle banche italiane serviranno circa 15 miliardi, alle spagnole 26 miliardi, alle francesi 9 miliardi, alle tedesche 5 miliardi, a quelle greche 30 miliardi. Questi gli elementi che hanno portato a rialzi molto forti. Dicevamo prima, molto bene le banche francesi, e quelle da noi quotate guadagnano: il Crédit Agricole il 23%, Società Generale il 21%, BNP Paribas il 16%, ma anche Deutsche Bank guadagna il 16,3%, le banche italiane guadagnano Intesa San Paolo il 9,15%, e poi Unicredit il 6,35%, Mediolanum però più 10%, Azimut più 8,30%, bene Mediaset molto bene più 8%, Saipem più 7%, Fiat Industrial più 6,40%. Parleremo di mercati, di reazioni all'accordo europeo, ma anche di reazioni italiane dei sindacati. Sarà nostro ospite il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, nella seconda ora del programma, alla lettera italiana, e quindi il paragrafo, chiamiamolo così, che riguarda i licenziamenti. Subito le altre notizie in breve. Allora, c'è poco altro oggi se non qualche dichiarazione del Presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy, che ha detto va bene l'impegno dell'Italia, deve rispettare i tempi, e il Presidente della Commissione Europea Barroso, che ha detto è imperativo che l'Italia concretizzi gli impegni. Però l'Unione Europea ieri in nottata ha detto che deve aver accolto con favore i programmi dell'Italia per le riforme strutturali, per rafforzare la crescita e per la strategia di consolidamento fiscale. Lo spread si muove sotto i 370 punti, cioè resta alto, però rispetto ai 409 punti dello scorso fine settimana ed inizio settimana soprattutto è molto meglio. Il tasso è al 5,80% i BTP a 10 anni contro il 6% che dovevamo pagare 3 giorni fa. Nel frattempo negli Stati Uniti lo Standard & Poor's è tornato ai livelli di inizio 2011, quindi è in parità rispetto a inizio anno l'indice Standard & Poor's a quota, mentre il Dow Jones è ampiamente sopra i 12.000 punti, 12.120 punti. Il dato americano sulla crescita dell'economia, più 2,5% il PIL americano nel terzo trimestre, infatti è in linea con le attese. Il dollaro è ai minimi nel frattempo sullo yen, ai minimi dalla seconda guerra mondiale. 75,83, a chi interessasse il rapporto di cambio dollaro-yen. Sì, tutte le organizzazioni sindacali sono pronte a fare lo sciopero, CGIL, UIL, CISL, UGL, e parleremo un po' di questa cosa, un po' tanto ne parleremo, ma anche vedo già dei messaggi delle assunzioni invece che vengono fatte alla Camera, ma soprattutto il menù della Camera, ma le assunzioni a Palazzo Chigi, 33 nuove assunzioni a tempo indeterminato, di cui 12 dirigenti. Insomma, forse anche dare l'esempio non sarebbe male, ma vorrei partire dai mercati. E però prima di partire dai mercati, aprire uno spazio brevissimo su quello che è successo in questi 2 giorni alle Cinque Terre, nella provincia di La Spezia. La nostra Maria Luisa Pezzali ha raggiunto il presidente di Confindustria della Spezia, Giorgio Bucchioni, che giovedì prossimo farà sapere a quanto ammonteranno i danni complessivi. Per ora ci sono almeno 50 aziende colpite direttamente dall'alluvione nello Spezzino. Sentiamo il primo bilancio completamente provvisorio del presidente di Confindustria La Spezia, Giorgio Bucchioni. Le 30 aziende di cui parlavo ieri sono aumentate, nel senso che adesso si avviano ad essere intorno alla cinquantina. Questo solo per quanto riguarda, diciamo, quelle che fanno riferimento un po' a Confindustria. Il pasticcio si sta aggravando perché, oltre ai danni immediati determinati come causa effetto dall'alluvione, adesso si stanno sommando danni indotti dal fatto che la viabilità è ferma. Noi abbiamo ancora le autostrade di Genova e Parma che sono chiuse. Speriamo che questa sera apra Parma, ma Genova resterà chiusa almeno fino a domani. I telefoni stamattina sono saltati, quindi c'era anche un problema di comunicazione. Per cui ci sono aziende, come per esempio i call center, che si trovano nella condizione di non poter lavorare. Poi ci sono altri settori, come per esempio le poste, che hanno tutti gli uffici sparsi in giro per la Val di Vara e Val di Magra, che non sono raggiungibili, per cui anche questo aspetto è un aspetto preoccupante. Il fatto che le autostrade siano chiuse impedisce l'afflusso e il deflusso delle merci per il porto mercantile, quindi anche questo è un ulteriore tema che aggrava una situazione già molto compromessa direttamente dall'alluvione. Secondo lei una stima ragionevole dei danni a che cifra potrà arrivare? Guardi, si tratterebbe proprio di dare dei numeri, perché ci sono aziende che sono state totalmente devastate, particolarmente in Val di Magra, alla foce del fiume, ci sono aziende che hanno avuto danni enormi. Alle istituzioni, al governo, che cosa chiedete? Allora, io ho scritto al ministro Sacconi quest'oggi perché ritengo che ci siano da 3 a 4 mila lavoratori che in questo momento non hanno lavoro e di conseguenza le imprese. Per cui ho chiesto al Ministro di attivare dei provvedimenti straordinari che, per quanto riguarda i lavoratori, immagino possano essere la cassa integrazione straordinaria, e per quanto riguarda le imprese vedere se è possibile attivare qualche provvidenza che vada a coprire i danni che hanno avuto dall'alluvione. Sabato mattina avremo un incontro con l'assessore alle attività produttive della Regione e il 3 ho invitato tutte le aziende che sono state colpite dall'alluvione e che hanno avuto danni a partecipare a un incontro in Confindustria dove quantificare la situazione che si è venuta a determinare. Quindi a quel momento potremo fare una cifra che abbia un riferimento attendibile. E

adesso si sono accorti che o chiedevano di meno oppure non beccavano proprio niente. Tutto questo ha portato, ci ha fatto buttare via quasi un anno e mezzo, dottor De Felice, creando innumerevoli tensioni sui mercati, buttando nel calderone anche Spagna e Italia. Sì, devo dire che se avessimo risolto tempestivamente la questione della Grecia, probabilmente oggi non saremmo qui. Poi noi italiani ce l'abbiamo messa tutta per metterci nei guai. Da soli, certo. Questo da soli, ma questo è un altro discorso. Il problema è che la Germania ha ripetutamente sottovalutato la questione della Grecia, si trattava di un debito relativamente piccolo rispetto alle dimensioni del debito pubblico dell'area dell'euro e alla fine siamo arrivati a questa soluzione sperando che questa basti. Non dimentichiamo che dei 440 miliardi del fondo salva stati una fetta molto importante è assorbita già dalla Grecia e sarà successivamente assorbita dal secondo piano di aiuti alla Grecia che è valutato in circa altri 100 miliardi di euro. Sì, 104 miliardi di euro. Un'ultima domanda e poi vengo a un tema che riguarda invece l'economia italiana, perché voi oggi avete presentato un bel rapporto sulla capacità delle regioni italiane di essere internazionalizzate. Ma ci chiedono molti ascoltatori, ma come mai se allora le banche tedesche e soprattutto quelle francesi dovranno rinunciare al 50% del valore del debito greco, cioè dei soldi che hanno prestato, crescono così tanto? La Francia ha prestato alla Grecia, cioè ha comprato debito per 55 miliardi, che è tantissimo se pensiamo quanto è cos'è la Grecia. La Germania 34 miliardi, l'Italia solo 8 miliardi di obbligazioni greche in pancia a voi banche. Come mai crescono i titoli bancari francesi così tanto se... dovranno rinunciare a metà del prestito? Perché le quotazioni sul mercato dei titoli greci già scontano una decurtazione del valore netto haircut, almeno del, no? 50%, il taglio dei capelli. Un haircut, come si dice in termini tecnico, quindi il semplice fatto di avere messo in qualche modo la parola fine ad un tema che va avanti da moltissimo tempo rappresenta un sollievo rispetto a una situazione di grave incertezza. Se io le dicessi che più che la ragione poté la pancia? La pancia degli operatori, sì. Sì, c'è indubbiamente anche un discorso di reazione tecnica a un forte ipervenduto che abbiamo avuto fino a questo momento. Adesso stiamo a vedere nei prossimi giorni nei dettagli che cosa succede. Allora, voi nel frattempo oggi avete presentato un nuovo superindice che misura il grado di internazionalizzazione economica, sociale e anche delle infrastrutture delle regioni italiane. Continuiamo a dire che l'unica crescita che c'è arriva dall'estero, che l'Italia quel poco di crescita che ha fatto l'ha fatto grazie all'export e restiamo il secondo paese per esportazioni in Europa dopo la Germania, con buona pace dei francesi. Allora, mi dice in questa classifica, al di là dell'indice, quali sono le 5 regioni più forti e soprattutto le sorprese? Perché in realtà dal sud è arrivata qualche buona notizia, io ho avuto qualche anticipazione prima. Prego. Sì, le 5 regioni che guidano la classifica italiana sono la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Ci tengo a dire che questo indice non considera esclusivamente i dati sull'export, l'andamento dei flussi commerciali o gli aspetti più strettamente economici dei processi di internazionalizzazione, ma anche aspetti sociali come la presenza di stranieri in Italia o di lavoratori italiani che operano all'estero, la presenza dei turisti stranieri che vengono nel nostro paese o degli studenti stranieri. E poi dal punto di vista delle infrastrutture, l'accessibilità tramite porti, aeroporti o valichi, laddove è il caso, rispetto all'estero. Quindi è un indicatore composito di internazionalizzazione. Però, dicevo, sul sud, a parte il fatto che nonostante questi indicatori, la Valle d'Aosta si colloca più bassa rispetto alla media. Sopra la media sono solo Trentino Alto Adige e Toscana, che non è che abbia tutti questi accessi ai valichi, ma evidentemente ha una forte presenza di rapporti con l'estero. No, dicevo, i divari molto pronunciati sono quelli di Sardegna, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Molise, Basilicata. Però voi avete fatto notare che vi sono stati alcuni progressi anche significativi. Sì, il divario tra nord e sud è molto ampio. L'aspetto promettente o che in qualche modo rincuora è che le regioni del sud stanno avendo, alcune regioni del sud stanno avendo degli incrementi importanti, in particolare la Sicilia, ma anche la Puglia e la Campania. E poi c'è un gruppo di regioni centrali dove la presenza di alcuni distretti nel campo della moda o nel campo della casa permette un elevato livello di internazionalizzazione. Quindi emerge un quadro con differenze fortissime tra le regioni italiane, tra la prima che è la Lombardia e l'ultima è la Basilicata, certo. Però ecco, sono delle situazioni che si stanno anche abbastanza modificando nel tempo senza essere chiaramente rivoluzionate. Un'ultima domanda, dottor De Felice, ma al di là della classifica, cioè numero 1, numero 20, numero 18, la dinamica, cioè come si sono mosse, è interessante perché voi avete notato in cui le regioni del nord più internazionalizzate hanno rallentato un po' la corsa, mentre hanno recuperato qualcosa le regioni meno internazionalizzate, ho capito bene? Sì, quello che emerge con forza è che conta molto il tessuto produttivo di una regione e per dirla in poche parole, visto che abbiamo poco tempo, anche la dimensione delle imprese presenti in quella regione. Questo sempre più nell'arco degli anni è diventato importante. Ora l'Italia purtroppo non ha moltissime imprese di medio-grandi dimensioni e quindi di fronte ad una concorrenza sempre più forte rischia di perdere alcune posizioni nello scenario complessivo internazionale. Per fortuna alcuni processi di innovazione e di ricerca invece continuano a sostenere, in modo particolare il Piemonte, che è la regione leader in Italia per quanto riguarda l'innovazione, e per certi versi anche il Friuli Venezia Giulia e poi il Lazio, che è dove sono collocati molti centri di ricerca di importanza internazionale. Allora, nel ringraziarla, però non posso non chiedere se il timore che hanno alcuni ascoltatori che il piano di salvataggio varato ieri possa in realtà far venire voglia ai paesi con alto debito a non risanare i conti, cioè l'effetto che tu vai a salvare qualcuno e però in realtà lui pensa di poter avere più margini. È un rischio o no, secondo lei? No, perché per esempio, giusto per venire all'Italia, l'Italia ha presentato ieri degli impegni davvero importanti con delle scadenze molto ravvicinate e vorrei dire che è un programma particolarmente ambizioso quello presentato dal nostro Presidente del Consiglio e quindi è stata anche un po' quella la leva che ha permesso di trovare un accordo tra francesi e tedeschi che in questo momento stanno dando un po' il passo all'interno dell'Unione monetaria. Su questo non ci sono dubbi. Grazie al capo economista del gruppo Intesa San Paolo, Gregorio De Felice. Grazie a voi, arrivederci. E intanto la borsa ha chiuso sui massimi, più 6,21% a Parigi, a dimostrazione che i timori, lo dico senza polemica, erano anche e soprattutto sulle banche francesi, visto che le banche francesi hanno fatto più 20, più 22% oggi. Banche francesi che hanno 55 miliardi di obbligazioni greche in pancia, che hanno decine di miliardi di obbligazioni italiane e spagnole in pancia. Ecco perché siamo tutti concatenati, con buona pace di Nicolas Sarkozy, bene anche la Germania più 5,12%, molto bene anche l'Italia più 5,50% la borsa, con Mediolanum più 11%, Azimut più 10%, Intesa San Paolo più 10%, ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. minuti. Allora facciamo la borsa adesso, devo leggere due notizie appena battute dall'agenzia. Secondo la Banca d'Italia, la necessità, il fatto che la stima che di 14 miliardi e mezzo di euro che servirebbe alle banche italiane, come quantificato dall'autorità bancaria europea, per ricapitalizzare, per aumentare il capitale, è solo una stima. Dice la Banca d'Italia, il fabbisogno effettivo delle banche italiane sarà comunicato all'autorità bancaria europea a novembre. E poi poco fa il commissario europeo agli affari economici monetari Olli Rehn ha detto: per convincere l'Italia a consolidare i propri conti pubblici è stato necessario un pressing da parte di tutti i paesi europei. Nel frattempo dall'Italia, anche qui un'agenzia di 2 minuti fa, dopo il sì dell'Europa a Silvio Berlusconi, le acque restano agitate nella maggioranza. Alcuni parlamentari del PDL stanno lavorando a una lettera appello nel Premier, nel quale si chiede di allargare la maggioranza e si chiede a Berlusconi di fare un passo indietro proprio per dar corso agli impegni assunti con l'Unione Europea. Questi sarebbero gli scontenti del PDL, però i contenti sono gli investitori di oggi in borsa: più 5,50% Milano, vicinissimo ai 17.000 punti Mibtel, più 6,30 Parigi, più 5,30 Francoforte. Il fondo europeo portato da 440 mille miliardi di euro, la stima di 104 miliardi con cui le banche dovranno ricapitalizzarsi, prima cercando soldi dai privati, poi eventualmente cercandoli sul mercato, dagli azionisti, poi sul mercato e poi al massimo con il fondo europeo di salvataggio, ma soprattutto l'idea che se tu vai a salvare Italia, Spagna, comunque garantisci la rete di protezione per Italia, Spagna e salvi la Grecia con 100 miliardi in più e con un rimborso dei bond, delle obbligazioni greche che non andrà oltre il 50%, quindi chi ha prestato la Grecia 1000 euro ne vedrà tornare 500, ebbene, mettendo in sicurezza gli stati europei, metti in automatico in sicurezza anche le banche europee, che sono piene di debito europeo, cioè piene di obbligazioni europee, come spiegava giustamente Gregorio De Felice poco fa. Guido Maurino, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. I francesi crescono, le banche francesi crescono quasi il doppio rispetto a quelle italiane. Crédit Agricole più 23,70, Société Générale più 22,50, BNP Paribas più 17% e Deutsche Bank più 16%. Da noi Intesa San Paolo più 10%, UniCredit più 7,5%. Sì, le banche francesi crescono perché molti istituti europei oggi hanno scelto di comunicare direttamente il fatto che non ritengono necessari degli aumenti di capitale, ma che si rafforzeranno a livello patrimoniale attraverso altre misure, ad esempio attraverso cessioni, eccetera. Questo fa sì che in qualche modo istituti francesi, ma anche tedeschi, oggi siano andati meglio di quelli italiani. Ebbene anche di banche non vorrei dire più nulla, ne abbiamo parlato nella prima mezz'ora del programma, bene anche Mediaset più 8,5%. Sì, oggi Mediaset ha approfittato, se così possiamo dire, dei conti presentati dalla società controllata in Spagna. Si tratta di risultati che ancora risentono della crisi del mercato pubblicitario spagnolo, meno 14,1% nei primi 9 mesi, tuttavia l'utile di Mediaset Spagna è cresciuto, è arrivato a 107,6 milioni di euro grazie a una politica di contenimento dei costi che ha pagato sul fronte del bilancio e che è stata premiata anche a Piazza Affari. Molto bene anche tutti i titoli del risparmio gestito, Mediolanum più 10,90 e Azimut più 10,11 sono i due migliori titoli dell'S&P MIB. Su Mediolanum però ci sono anche dati sul risparmio gestito in generale, no? Sì, ieri sono stati un po' diffusi i dati sul risparmio gestito. Il risparmio gestito si è mosso, diciamo, in linea con il settore bancario e in più ha premiato due società come Mediolanum e Azimut, che nonostante il settore continui ancora a registrare pesanti deflussi di capitale, invece si muovono in controtendenza, perché sia Mediolanum, che ha una raccolta positiva a settembre di 30,5 milioni, sia Azimut, che si attesta sui 30 milioni circa, si muovono in controtendenza rispetto al comparto e quindi sono stati premiati oggi a Piazza Affari. A proposito di conti, oggi l'ENI ha diffuso i conti per i primi 9 mesi dell'anno, l'utile netto cala del 3% a 5 miliardi 570 milioni di euro, la produzione fa meno 12%, nel 2011 dovrebbe fare meno 10%, pesa qui il blocco della Libia e nel quarto trimestre c'è un parziale recupero, E la scoperta del gas in Mozambico però aumenta, anzi si viene a sapere che il giacimento dovrebbe essere di quasi un 50% più grande rispetto a quanto annunciato lo scorso 20 ottobre. Eni e Saipem. Sì, appunto, per le ragioni che dicevi tu, Eni ha pagato sul risultato netto l'aumento della Robin Tax di cui si è molto discusso nelle settimane e nei mesi precedenti, e tuttavia sono ancora risultati che sono stati discretamente premiati al mercato, più 3,86% oggi in borsa. Lo stesso si può dire per Saipem, che aveva invece diffuso i suoi risultati ieri con una crescita dell'utile netto del 12% e che ha fatto segnare oggi un più 7,78%. Ancora sui titoli, bene Fiat Industrial, molto bene oggi, più 7,40%, Tenaris più 7,20%, Generali più 6%, Enel più 6%, Pirelli più 5,70%, Monte dei Paschi più 5,1%, Banco Popolare più 4,80% come Prismian ed Exor, il 4,5% lo guadagna Finmeccanica e Fiat, il 4,40% rialzo di Steam Microelectronics, il 4,20% di Todds e di Buzzi Unicem, di Eni tu hai detto, Telecom Italia più 3,80%, Atlantia più 3,70%, Fondiaria più 3,60%, come la Popolare di Milano. Chiudo con A2A più 3,30%, Mediobanca più 3%, negativa l'automatica l'1,5%, Campari lo 0,88%. Di calo andiamo con le informazioni sul traffico, poi altri titoli e poi la lettera italiana a Bruxelles, i sacrifici chiesti al paese, i sacrifici non chiesti, lo so, siamo un po' populisti, ai deputati, perché è uscito il nuovo menu della Camera e alla faccia dei rincari, vi anticipo già che siamo intorno a un centesimo di euro quanto ai rincari sull'anno scorso, i rincari promessi perché era un menu un po' troppo economico. Ma andiamo con ordine, traffico e poi di nuovo la borsa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Migliori e peggiori, abbiamo già detto dei migliori le banche francesi, peggiore la Lazio, meno 6,21%, KPME Group meno 3,30%, bene anche AXA più 14,70% e Indesit Company più 13,30%. Pramac, Guido? Sì. No, Pramac diceva, più 16%. Sì, Pramac oggi ha vinto una commessa da 280 milioni di euro. La società ha infatti siglato un accordo con una cooperativa che prevede la realizzazione sostanzialmente di un impianto fotovoltaico a Gela in Sicilia, una commessa molto grande considerando le dimensioni di Pramac, e quindi oggi il titolo è volato ed è stato anche a lungo sospeso in asta di volatilità. Allora, grazie Guido Maurino, ottima la giornata di borsa, spero che sia servita per un po' di entusiasmo, perché adesso ci penso io a deprimervi e magari anche a farvi arrabbiare. Perché? Perché mentre si è saputo oggi, questa non è una brutta notizia necessariamente, che il ponte allo stretto viene bloccato come finanziamenti, stop ai fondi dello Stato per la realizzazione, è una mozione dell'Italia dei Valori che però è stata votata anche da alcuni membri del governo. Faccio notare che in questo momento abbiamo già speso 250 milioni di euro per il ponte sullo Stretto, per gli studi di fattibilità, 250 milioni di euro. Se venisse bloccato, grazie agli accordi, la penale sarebbe di 0,5 miliardi, quindi altri 500 milioni di euro. Complimenti per un'opera che obiettivamente, sapete come la penso, non serve a nulla, con buona pace del mio amico Giuseppe Cruciani, che invece la pensa in maniera diversa, però sono usciti i nuovi menu della Camera e alcune indiscrezioni sulle assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che mi interessano particolarmente perché il governo italiano ha promesso nella lettera inviata a Bruxelles anche di rivedere le norme sui licenziamenti più facili in caso di crisi aziendali, quindi dietro indennizzo e senza reintegro. Possiamo recuperare quel tappetino musicale sul menu perché è interessante, interessante. Ricorderete che lo scorso 27 agosto, dopo che aveva spopolato su internet il menù del ristorante prima del Senato e poi della Camera, il senatore questore Angelo Maria Cicolani aveva promesso: aumenteremo i prezzi del menù del Senato e anche della, e ugualmente erano arrivate indicazioni sulla Camera, e li porteremo tra i 25 e i 30 euro. c'erano prezzi che prevedevano la mele di spigola con radicchio e mandorle a 2,76 euro, risotto con rombo e fiori di zucca a 3,34 euro, filetto di orata in crosta di patate a 5,23 euro. Allora, vediamo se sono aumentate rispetto all'anno scorso. E prendiamo, lo leggerò con la massima serietà possibile, il menù di una mensa al Senato. Della mensa al Senato. Trofie, asparagi e speck, 87 centesimi. Insalata, spinaci e parmigiano, 1,75 euro. Tagliata con rucola, grana e aceto balsamico, 3,41 euro. Ananas, 43 centesimi di euro. Torta della nonna, 67 centesimi di euro. Ora, per non essere proprio populisti, uno potrebbe anche dire, vabbè, è il menù del Senato convenzionato, ma dov'è la promessa di aumentare il costo del menù? Siamo andati a vedere quanto costavano gli stessi ingredienti, le stesse pietanze, scusatemi, un anno fa. Allora, in effetti ci sono degli aumenti, perché l'insalata di spinaci e parmigiano è aumentata di un centesimo. La tagliata di rucola, grana e aceto balsamico è aumentata di ben 2 centesimi. E il servizio è aumentato di ben 6 centesimi. E io pago! E io pago! Interferenze strane. E adesso però diciamo anche quanto costa a noi il pasto parlamentare. Siccome costa tra gli 8 e 10 euro, la differenza, il valore di mercato è 40-50 euro, a ogni italiano costa circa 30 euro il menù vero del parlamentare. Allora, siccome i parlamentari sono 950, se ipotizziamo che mangino 2 volte al giorno e volete che non mangino 2 volte al giorno, per 20 giorni al mese e per 10 mesi si arriva alla cifra di 15 milioni di euro l'anno come differenza tra quanto costa a loro e quanto integriamo noi. E io pago! E poi la chicca, visto che arriviamo nella seconda ora del programma con il segretario della UIL Angeletti al tema dei licenziamenti. Allora, il problema è delicato, lo sappiamo tutti, insomma, ci sono crisi occupazionali in corso, ma perché, come mai, lo scopre oggi, devo dire, Sergio Rizzo su Corriere della Sera, Palazzo Chigi ha assunto? Con un decreto firmato dal ministro della funzione pubblica Renato Brunetta c'è il via libera a 33 nuove assunzioni a tempo indeterminato, di cui 12 dirigenti a Palazzo Chigi, e la manovra di agosto infatti esclude il governo dal divieto di nuove assunzioni. Però i dirigenti arriveranno a questo punto a quota 400. 400 dirigenti a Palazzo Chigi sono il doppio di quanti ha il governo britannico. Stipendi che sono 4.600 stipendi, solo quelli pagati da Palazzo Chigi, da 50.000 euro lordi annui in su. GR, e poi parliamo della lettera italiana a Bruxelles. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, in cui parleremo, dopo aver trattato il tema dei mercati, oggi lo ricordo perché si fosse messo in collegamento, fortissimi rialzi dovunque, più 5,50 Milano, più 6% Parigi, più 5,35 Francoforte, dicevo, e benissimo le banche, le francesi più 20%, le italiane più 10%, come Intesa San Paolo. Il tema di adesso è la lettera inviata a Bruxelles, quella che prevede le pensioni, vabbè, poche novità, dal 2026 tutto in pensione a 67 anni, la pubblica amministrazione, la possibilità di licenziare il dipendente pubblico che rifiuta il trasferimento, un piano di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico per 15 miliardi di euro in 3 anni, che va varato entro il prossimo novembre, che prevede anche la vendita di società controllate da enti locali, e poi le liberalizzazioni entro il 1 marzo 2012 dovrà essere completata la liberalizzazione delle professioni, quindi più concorrenza nel settore acqua entro 3 mesi, nei rifiuti entro 6 mesi, nei trasporti entro 6 mesi, nelle farmacie comunali entro 12 mesi. Domani di questo si occuperà il Sole 24 Ore con svariati approfondimenti a partire dal tema proprio del mercato del lavoro e del nuovo lavoro, e perché le novità ci sono, e anche se sono diciamo in divenire. Francesco Gaeta, buonasera. Buonasera. Ciao Francesco. Cosa troveremo sul lavoro oltre che sulle pensioni domani su Sole 24 Ore? Troveremo diciamo una descrizione degli strumenti che stanno per essere affrontati per rendere più semplice l'ingresso oltre che l'uscita dal mercato del lavoro, nel senso che la lettera che è stata recapitata dall'Unione Europea, dal governo, parla sì di licenziamenti e quindi di maggiore flessibilità in uscita, ma parla soprattutto di strumenti volti a favorire l'occupazione giovanile e femminile attraverso per esempio la promozione del contratto di apprendistato o del contratto di inserimento delle donne. Sono strumenti che noi cercheremo di spiegare in termini chiari, semplici, dando conto anche del vantaggio anche per le imprese. Ti faccio soltanto un esempio, Sebastiano. Per i datori di lavoro che assumono apprendisti in modalità di apprendistato dalle liste di mobilità, i contributi sono inferiori. E il decreto sviluppo prevederà a quanto sembra anche una decontribuzione più estesa per le donne che entrano sul mercato del lavoro. Quindi sarà una sorta di dizionario per cercare di capire come si possono incentivare forme di contratto per le categorie più svantaggiate, cioè appunto i giovani e le donne fondamentalmente. E allora parliamo, grazie, perché domani appunto ci sarà la parte che riguarda giovani, donne, ma anche le altre novità, oltre che le pensioni, la pensione su misura, il pensionometro per i professionisti e appunto il dizionario del nuovo lavoro. Ripercorriamo la giornata partendo proprio anche dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi, che ieri l'agenzia è uscita praticamente a notte fonda, lasciando il vertice di Bruxelles, ha detto: noi non siamo la Grecia, non ci sono rischi sociali. Noi non abbiamo introdotto delle misure che sono così negative come in Grecia. In Grecia ricordo che ci sono state misure che hanno riguardato addirittura il licenziamento di un numero importante di impiegati pubblici, la diminuzione del 25% degli stipendi. Da noi nulla di tutto questo, da noi c'è soltanto la mobilità e la possibilità che vengano messi in cassa di integrazione degli impiegati pubblici per dei periodi limitati. Questa quindi la dichiarazione, come diciamo, questa resa prima di lasciare Bruxelles in mattinata, lasciando il vertice europeo, però la CGIL su questo è subito intervenuta definendo le misure della lettera italiana misure da incubo. Il sindacato reagirà con la forza necessaria. La Camusso, la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, ha detto: l'unico licenziamento facile che vogliamo è quello del governo. E già ieri in serata il numero uno della CISL, Raffaele Bonanni: reagiremo subito sui licenziamenti e sulle pensioni, licenziamenti facili istigano alla ribellione. Reagiremo subito perché non siamo d'accordo su queste materie, mandarle in avanti senza che ci sia stata alcuna discussione. Mi pare uno specchietto della Lodole per gli imprenditori che si aspettano in verità una mobilitazione diversa nel paese, anziché appunto istigare alla contrapposizione e istigare le persone in questo modo alla ribellione. Quindi noi reagiremo su questo. Netta sembra la posizione di CGIL e CISL, vogliamo ascoltare anche quella della UIL, ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il segretario generale della UIL, Luigi Angeletti, buonasera. Buonasera. Poi magari tocchiamo anche le pensioni, ma insomma, volete lo sciopero generale sul passaggio nella lettera presentata a Bruxelles che, ve lo ricordo, prevede licenziamenti più facili in caso di crisi aziendali, anche per i lavoratori a tempo indeterminato dietro indennizzo ma senza reintegro. Ci sembra una indicazione assolutamente sbagliata. Le faccio un esempio. Noi abbiamo speso molti miliardi di euro per gli ammortizzatori sociali con la logica di finanziare l'occupazione. Noi siamo contrari a spendere miliardi di euro per sostenere i redditi dei disoccupati. Quindi vogliamo che questi soldi vengano invece utilizzati per far sì che il legame tra l'impresa e il lavoro non sia interrotto. Controprova, per questo dice un sindacalista, non c'è stata mai nessuna associazione di impresa, che dovrebbero essere teoricamente i beneficiari, che ha mai chiesto né rivendicato una modifica delle norme che presiedono ai licenziamenti in Italia. Com'è? Perché pensano che non ce ne sia bisogno. Sì, però fermo restando che sono d'accordo con lei, nessuna impresa ricorre facilmente ai licenziamenti. E Non lo chiedono nemmeno. Quindi se hanno fatto le imprese fanno una più o meno fondate N richieste, no? Al governo, alle parti sociali. Non hanno mai chiesto di dire, guardate, dobbiamo cambiare le norme che presiedono ai licenziamenti. Non l'hanno mai fatto, per un motivo molto semplice, perché in Italia non solo è possibile licenziare, ma paradossalmente costa di meno di quanto costa all'estero. Allora, facciamo una cosa, Angeletti, abbiamo il traffico e poi vorrei capire anche un altro punto che a me pare particolarmente importante, ossia la parte della lettera che prevede la possibilità di licenziare il dipendente della pubblica amministrazione che si oppone al trasferimento. Tema, a mio avviso, molto importante quando dovesse essere varata la riforma federale, perché non puoi tenere gli stessi dipendenti a Roma e avere dei doppioni su base regionale e comunale. Poi torniamo sulle pensioni, perché vorrei capire fino a che punto siete disposti a spingervi. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti. Allora, segretario generale della UIL Luigi Angeletti, almeno sul punto che prevede come caso estremo la possibilità di licenziare il dipendente della pubblica amministrazione che dovesse rifiutare il trasferimento, neanche su quello siete d'accordo? Assolutamente no, per un motivo molto semplice. Noi vogliamo che le regole che ci sono nel privato siano anche nel pubblico, e nel pubblico ci sono due fattori diversi in peggio. Il primo, che non hanno nessun diritto a negoziare. Nelle imprese private si negoziano anche le ristrutturazioni, nelle imprese pubbliche questo ci è vietato. Vietato. Seconda questione, la dico con una battuta: nelle imprese private, quando c'è una crisi, molto spesso gli azionisti e i manager saltano. I padroni degli imprenditori della pubblica amministrazione sono degli uomini politici, i quali non pagano mai. No, ma mi chiedevo sul trasferimento del dipendente pubblico, cioè sul licenziamento del dipendente pubblico che rifiutasse il trasferimento. Mi sembra un elemento importante, perché se ragioniamo in un'ottica di federalismo è chiaro che non possiamo andare a moltiplicare le funzioni. Allora io immagino che alcune delle funzioni centrali vengono trasferite su base regionale. Era meglio farlo 20 anni fa, no? Quando sono state fatte le regioni. Ma meglio adesso poi, che mai. Per quanto riguarda la mobilità, non è un problema che siamo contrari alla mobilità, purché sia fatta per esempio con gli stessi criteri che si fa nei pubblici, nei privati. Nei privati si fa una mobilità circoscritta in un raggio di 50 chilometri, no? Per rendere effettiva la mobilità e non paragonabile a un licenziamento mascherato. Quindi se la mobilità si tratta di discutere da un posto a un altro posto di lavoro, che però sia reale, nel senso che non mandano un palermitano a Milano e viceversa, ovviamente non è questo il vero problema. Ma torno a ripetere, tutto ciò nel settore privato i lavoratori lo possono discutere e negoziare, nel settore pubblico dovrebbero solo ubbidire. Mi scusi Angeletti, però allora, mi sembra di capire che lei dice no alla possibilità di licenziare il dipendente pubblico che rifiuta il trasferimento, sì al ragionamento su una mobilità interna. Però torniamo ai licenziamenti. Allora, voi avete, se ho ben capito, anche voi siete per lo sciopero generale, se venisse confermata la... sicuramente. Mi sembra che non, cioè, però abbiamo già praticamente deciso. Ecco, no, mi sembra che procede. Però il governo non potrà mica tornare indietro, mi scusi, con tutto quello che è successo. Uno presenta una lettera a Bruxelles, se... Allora, mettiamola così. Mm. Quanti impegni ha assunto il governo dentro quella lettera? N. Mm. No? Adesso non ricordo il numero esatto. Tutti molto importanti. Dismissioni, liberalizzazioni, sì. Pensioni. Sono una, e molte sono anche utili e impegnative. Vediamo se il governo le realizza tutte, poi discutiamo alla fine. Ma secondo lei perché è stata inserita la norma sui licenziamenti? Nel senso che alcuni hanno voluto vedere... Lo ha chiesto la BCE, lo ha scritto, non è che una... Ecco, allora, quella era la famosa lettera più o meno segreta, che poi di cui, certo, molti passaggi sono stati conosciuti. Compreso questo. E... Perché c'era, come dire, una pubblicistica, e ovviamente all'estero leggono i giornali, no? E c'è una pubblicistica che spiega che in Italia non si licenzia, che è vietato licenziare, che è impossibile licenziare. Ma questo lo dicono i giornalisti, no? Non lo dicono gli imprenditori. Senta, ma lei trova qualche... Mi permette una battuta? Prego. Quando si è fatto l'articolo 8, io ho letto il Corriere della Sera, licenziamenti facili, l'altro ieri lo stesso dire, licenziamenti facili. Ma allora se erano già stati, se il problema era stato risolto con l'articolo 8, che bisogno c'era di una nuova norma? Sì, ma lei, quindi lei dice è sempre... Per dire come viene rappresentata la realtà, no? Sì, ho capito benissimo, però lei vede un qualche legame tra l'articolo 8 e questa promessa fatta a Bruxelles? Cioè che c'è no, un, c'è sono un... assolutamente due cose completamente diverse. L'articolo 8 serve a dire che nella contrattazione di secondo livello è buona, valida, erga omnes, è approvata secondo gli accordi, eccetera, eccetera, e dice che le parti possono discutere anche del mercato del lavoro, se vogliono. E derogare rispetto alla legge nazionale. E derogare rispetto alle leggi, se le parti vogliono, che mi sembra un atteggiamento, almeno diciamo così, di una qualche... Senta, però Angeletti, fornisca al governo una via d'uscita, perché insomma non possiamo il giorno dopo aver presentato una lettera, i mercati oggi vanno bene, non solo per la lettera, anche per la Grecia, per il Fondo Europeo. No, ma per quello che hanno deciso. Esatto, no, per la lettera no, ma per il Fondo Europeo di Salvataggio, per la Grecia, certo, e quant'altro. Però lei capisce bene che... Insomma, allora, le rispondo esattamente, le ripeto la risposta. Il governo approvi tutti gli punti, tutti gli impegni, tranne i licenziamenti. Assunto, tranne i licenziamenti. Poi vedremo se questo è derimente o meno per la credibilità del paese. Cioè, la vostra via di uscita al governo è approvare tutto quello che presenta nella lettera, lasciando per ultimi i licenziamenti. Ah, e poi vedere se lo fanno. E poi vedere no, se lo fanno, e poi vediamo se serve. E poi vedere se serve. No, se no, riuscissero a provare tutto e mancassero solo licenziamenti, a quel punto però glieli fate fare. A quel punto sarebbe un certo imbarazzo, però vorremmo vedere tutti gli imprenditori che fanno una grande battaglia per dire vogliamo cambiare le norme, perché queste norme sono antiquate, come dire, riducono la flessibilità o impediscono di assumere le persone. Cioè, se anche il governo, mi scusi se insisto, riuscisse a far passare tutti i punti presenti in questa lettera, lasciando per ultimi i licenziamenti, la parte sui licenziamenti come chiedete voi, a quel punto però il governo sarebbe legittimato a approvare anche quella parte lì. Cioè, se ha dimostrato che ha fatto tutto il resto, può fare anche quello. Sì, il governo sarebbe legittimato a farlo, ci mancherebbe, il governo è legittimato a farlo, perché il governo del paese ha tutti i poteri per farlo. Quello che io le sto dicendo, il nostro giudizio non è che cambierebbe, ovviamente, per un motivo molto semplice, perché riteniamo la soluzione assolutamente, come dire, platonica, d'immagine e quant'altro. Vorremmo che ci spiegasse, ma non il governo e non i partiti, cioè quelli che poi queste cose devono fare concretamente. Cioè la Confindustria, la Confcommercio. Certo, qual è la soluzione ideale, no? O si fa per propaganda o si fa perché è un fatto reale, no? Se è un fatto reale interessa le imprese, se è un fatto reale. Ma quindi voi volete la posizione di Confindustria adesso? No, noi vogliamo discutere con la Confindustria quali sono le eventuali modifiche del mercato, nel sistema del mercato del lavoro che la Confindustria ritiene necessarie, perché parlando con la Confindustria, quindi parlando con le imprese, si trovano soluzioni, come dire, assolutamente pertinenti ed efficaci relativa ai problemi. Con la politica si parla inevitabilmente di immagine politica, no? E allora, se qual è il problema? Un fatto di immagine o un fatto di sostanza? cioè dobbiamo approvare norme per un fatto di immagine o per un fatto di sostanza. Ma per mi un scusi, fatto di sostanza ce lo spieghino. Ma lei ritiene quindi che i licenziamenti più facili in caso di crisi aziendali e appunto anche per... non andrebbero bene agli imprenditori? Starebbero... perché non lo fanno? Domanda, perché non lo fanno? In tutti questi anni abbiamo fatto delle ristrutturazioni, le stiamo ancora facendo in molte imprese e in molti casi la conclusione di queste ristrutturazioni sono riduzioni di personale. E torno a ripeterle, non ho mai visto nessuna azienda, né pubblica ma neanche privata, dire no, invece della mobilità così come l'abbiamo, che poi porta al licenziamento dopo 2 anni, o invece della cassa integrazione straordinaria, preferiamo che licenziare la gente. Perché non lo chiedono? Forse perché non possono farlo in questo momento, no? Sì, ma possono chiedere di modificare la legge o no? O non chiedono mai di modificare le leggi. Quindi secondo lei non è una priorità degli industriali in questo momento? Esatto, vi attendete... Esatto, non è la priorità. Assolutamente non è la priorità. Grazie, grazie al segretario generale della UIL Luigi Angeletti. Grazie a lei. Vedo molti messaggi, ma non è, insomma, non si può far dire a maggior ragione a un sindacalista quello che non vuole dire. Ha detto che comunque loro lo sciopero lo faranno. Ha sfidato Angeletti, il governo, a mettere in pratica tutte le altre cose presenti in quella lettera e poi vedere se riesce a farle nei tempi che ci siamo dati, tempi che molti osservatori valutano molto stretti, e in effetti sono strette proprio le indicazioni che arrivano da questa lettera, però ha detto e poi vediamo, comunque non ce lo chiedono gli imprenditori, noi vogliamo dialogare solo con la controparte, quindi con gli imprenditori, con le associazioni datoriali. I tempi sono stretti, lo dicevo anch'io prima, per quello che riguarda le varie riforme previste in questa lettera, addirittura si va a 3 mesi per quello che ha a che fare con la parte del settore acqua, i rifiuti a 6 mesi, i trasporti entro 6 mesi, le farmacie comunali entro 12 mesi, entro il marzo del 2012 la liberalizzazione delle professioni. È arrivata una nota adesso però del leader dell'UDC Casini, molto dura sulla lettera. Dice: la lettera del governo italiano alle istituzioni europee è un patto scellerato sottoscritto tra Berlusconi e Bossi che in cambio della libertà di licenziamento non mettono mano alle pensioni. Staremo a vedere, confermo invece a chi me lo chiede, quanto scoperto oggi, do merito al collega Sergio Rizzo, spesso ospite anche in questa trasmissione, delle assunzioni a Palazzo Chigi. Ripeto, Palazzo Chigi assumerà 33 nuove persone, di cui 12 dirigenti, che porteranno i dirigenti di Palazzo Chigi a quota 400, il doppio del governo inglese, e le spese di Palazzo Chigi saliranno il prossimo anno da 465 milioni a 486 milioni. Alla faccia dei tagli. È veramente tutto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.